la mia vita è stata dedicata ai problemi dell'educazione del mondo giovanile per tantissimi anni. Uno degli slogan a livello educativo è quello di aiutare i ragazzi a capire la forza del diritto e non il diritto della forza. In una società che è estremamente individualista, fatta di apparenze e spesso di strafotenza e di arroganza. Qui evidentemente dentro a questa cultura, no, si insinua il malaffare, e anche nel Veneto in modo particolare abbiamo avuto per il passato, credo, un saccheggio del nostro territorio, una groviera il Veneto. Il problema dei rifiuti, per esempio, è un problema estremamente importante, lo stoccaggio e poi lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi. Questo è un problema dove le mafie si inseriscono tranquillamente e ci sono spazi dove si possono e si sono inserite. Tutto il problema poi dell'economia sana, dove che loro possono entrare, mi viene in mente la grande distribuzione, lo possono entrare tranquillamente e viziare un po' il mercato dell'economia. Nell'ambito delle costruzioni, nel Veneto in modo particolare, e credo come un po' la Lombardia sull'edilizia, poi c'è tutto il problema della prostituzione e c'è tutto il problema dell'usura del gioco d'azzardo. Secondo lei su quali cardini si deve impostare la lotta alla mafia? Ci sono tre punti di riferimento secondo me che sono fondamentali. Primo, c'è la prevenzione, che vuol dire antimafia della cultura e antimafia dei diritti. L'antimafia della cultura è tentare di far crescere una cultura non del tutto e subito, ma la cultura della fatica, della conquista, della solidarietà, e questo a tutti i livelli, in tutti gli ambiti delle istituzioni di carattere culturale, dalle scuole al discorso del tempo libero, al discorso delle parrocchie, al discorso delle associazioni. Ecco, dove si fa educazione, avere chiaro questo obiettivo. E poi il discorso dei diritti, che vuol dire il lavoro, vuol dire la casa, vuol dire il tempo libero, vuol dire creare spazi in cui i ragazzi non solo diventano, no, nomadi della birra, ma dove possono incontrarsi, trovare degli spazi per dialogare, per confrontarsi e creare anche degli spazi dove possono confrontarsi col mondo degli adulti, perché i giovani non sono il nostro futuro, i giovani sono il nostro presente e con loro dobbiamo giocarci tutti insieme il nostro futuro. Ecco, questo è il discorso della prevenzione e questo io credo sia fondamentale. Poi dobbiamo aggredirla con la repressione, e qui evidentemente le forze dell'ordine fanno il loro dovere, ma io voglio sottolineare che l'antimafia non si gioca soltanto nella cattura dei latitanti, ma la repressione è ad ampio raggio, quindi la prevenzione del crimine. Chiudere quelli che possono essere i percorsi che possono essere infiltrati dalle organizzazioni mafiose, quindi molte intelligence, molte attrezzature alle nostre forze dell'ordine che comunque stanno facendo il loro dovere e lo fanno benissimo anche da noi. Io sono in contatto con loro spesso nel Veneto e devo soltanto sottolineare che lo stanno facendo bene, e questo è l'altro aspetto importante. E poi c'è il terzo punto, la confisca. La confisca dei beni io credo che sia uno degli aspetti importanti, e stiamo aspettando e vedremo i frutti, no, di questa agenzia per i beni confiscati. Questi sono i tre pilastri per combattere la mafia. Chiudiamo con una battuta. Lei come uomo di chiesa che idea si è fatto? Da dove nasce l'illegalità? Qual è la radice? Io credo che la radice sia proprio un orizzonte culturale di estremo individualismo, di una competizione cieca e cinica. Il fatto di puntare tutto sull'avere più che sull'essere, io credo che sia importante. Bisogna ritornare a, come direbbe Bauman, alla capacità di sostare, oppure di pensare, come direbbe Norberto Bobbio. Questo credo sia il nocciolo, perché le mafie puntano sul dominio, sul denaro e sul potere. Se noi vogliamo scalfirlo, dobbiamo combattere questo. Non è una cosa semplice, non è una cosa facile, ma io credo che sia una cosa possibile. Io dico sempre un po' alla gente, nelle beatitudini ce ne sono due sulla giustizia: beati gli operatori di giustizia e beati coloro che hanno fame e sete della giustizia. E allora su questo dobbiamo giocarci la nostra credibilità. E io dico sempre, su una mano ho il Vangelo e sull'altra mano è la Costituzione italiana, che io lo ritengo un Vangelo laico. Rosario Livatino dal suo diario, diceva: noi saremmo alla fine giudicati non se siamo stati credenti, ma se siamo stati credibili. E questa credo valga per i credenti come per i laici. Era la seconda edizione di Italia in Controluce, domani 6:30, Radio 24.